Ciao, ho fatto questo numero. Era l'ultima chiamata effettuata. Ma chi sei? Senti, è successo un casino. Dio mio, non so come dirtelo. Ma dirmi cosa? Devi venire subito qui, è un'emergenza. Ma qui dove? Vieni subito. Dio. Sta storia Sirano, cavalli tirano, e fino a mezzanotte qui, come quella fiaba lì, dopo le strappano il vestito Dior, la nostra carrozza è un Porsche, le scarpe di cristallo sì, perse in quei palazzi lì, noi due fatti dietro occhiali blu. Nuovi Gucci, le fasce scombinate Rubik, un film di Kubrick. Tu che invisi nuovi trucchi, io invece punti. Io che scappo all'ora giusta, tu che riaggiusti. Fino a quella notte lì, a quella mezzanotte lì. A odiarmi se sono così, lo so, che ti dico che cambierò. Prometti che dirai di no e farai la stronza. Per questa volta, per una volta. Prometti non mi seguirai pure stanotte. Perché stanotte non si ritorna. Perché io non ho un posto lassù. Perché amarsi e ammalarsi qua giù. Perché in fondo stavolta non c'è una carrozza. Stanotte moriamo qua giù. So che quello che ho lasciato non torna due volte da me. Torno dal nulla siccome DiCaprio. È il diavolo vestito bene. Quella che non hai dimenticato, forse è la stessa che odiate di più. È meglio se mi stai lontano. Amare è come ammalarsi qua giù. Non lo sai. No, tu non sai di me quanto penso, ma che vita è. Per questa volta, per una volta. Prometti non mi seguirai pure stanotte. Perché stanotte non si ritorna. Perché io non ho posto lassù. Perché amarsi e ammalarsi qua giù. Perché in fondo stavolta non c'è una carrozza. Stanotte moriamo qua giù. Un giorno verrò a prenderti sotto quei palazzi in quel quartiere lì. Quel posto che non meriti, quelle case strette, quella gente, quel futuro in quei palazzi lì. Giuro un giorno verrò a prenderti, con un sacco di soldi per scappare via. Tu vestita di Fendi, con quelle scarpe trasparenti. Un giorno verrò a prenderti su un Porsche, Chuck Givenchy, proprio sotto quei palazzi lì. Ti porterò via da sta città, da quei palazzi lì. Ci hanno insegnato ad essere cattivi. Solo ad essere cattivi. Ad essere cattivi. Solo ad essere cattivi. E dimmi questa volta no. E dimmi questa volta no. Dimmi questa volta no. Dimmi questa volta no. Oh, dimmi questa volta no. Dimmi questa volta no. Questa volta no. Dimmi questa volta no. Prometti che dirai di no e farai la stronza. Per questa volta, per una volta. Prometti non mi seguirai pure stanotte. Perché stanotte non si ritorna. Perché io non ho posto lassù. Perché amarsi e ammalarsi qua giù. Perché in fondo stavolta non c'è una carrozza. Stanotte moriamo qua giù. Moriamo qua giù. Noi moriamo qua giù. Oh, noi moriamo qua giù. Noi moriamo qua giù. Noi moriamo qua giù. Noi moriamo qua giù. Noi moriamo qua giù. Dimmi di no.